got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Benvenuti da Valentina Furlanetto a questo appuntamento di Indovina chi viene a cena, la trasmissione di Radio 24 che vi parla di cibo attraverso le storie delle persone che sono arrivate in Italia e stanno contribuendo a cambiare il nostro paese. Parliamo quindi di cultura, di cibo, di migrazione, di identità, e questa sera lo facciamo con raccontandovi la storia di un gruppo di ragazzi che sono partiti dall'Africa, hanno attraversato il Mediterraneo su un barcone e hanno lavorato come braccianti nelle campagne in Calabria e in Puglia, sfruttati, hanno trovato la forza per ribellarsi, sono andati a Roma, hanno lanciato una cooperativa al 100% biologica che produce yogurt e verdura biologica alle porte di Roma. Si chiama Baricamà e sta avendo un grosso successo. I prodotti sono consegnati ai clienti direttamente a casa in bicicletta e l'iniziativa, oltre che dal vivo, sta avendo un enorme successo su Facebook. Uno dei protagonisti, il fondatore di questa cooperativa, è Suleiman Diara. Benvenuto. Buongiorno Valentina. Allora, voi siete una cooperativa di persone arrivate in Italia dall'Africa che producete yogurt biologico e anche altri prodotti che adesso ci racconterà. La vostra avventura parte da Rosarno. Eravate braccianti voi nelle campagne di Rosarno, no? Sì, allora grazie. Noi siamo una realtà che è nata dopo la manifestazione che è stata fatta nel gennaio 2010 a Rosarno. Dopodiché, quando siamo partiti da Rosarno, siamo finiti a Roma. A Roma abbiamo cominciato a fare questa attività che produciamo yogurt biologico e dei ortaggi biologici, cercando di non essere sfruttato da qualcuno, ma ci autosfruttiamo. È partito da questo punto di vista, perché inizialmente era una cosa molto piccola, che potremmo riuscire ad avere un piccolo sostegno solo la sopravvivenza. Avendo attraversato tante difficoltà, ma cerchiamo di mettere qualcosa in piedi che ci potrà aiutare. Quanti siete innanzitutto? Sei ragazzi africani e più un ragazzo italiano a sindrome di Asperger che aiuta la parte gestionale del sito. Baricamà, da dove viene Baricamà, questo nome? Cosa vuol dire? È lingua nazionale del Mali, che sarebbe resistente e resilienza. Fondando questa attività abbiamo anche pensato di avere uno scambio delle culture con italiani, quindi per questo è stato il motivo di inserire gli italiani ragazzi sindrome d'Asperger. Per noi è un modo di aiutare anche loro, che sono le persone pure che hanno molto difficoltà, più o meno è simile alla nostra, perché non avendo studiato nel nostro paese abbiamo sempre una difficoltà di collaborare con gli italiani. Quindi per fatto che i ragazzi italiani sindrome di Asperger hanno difficoltà della comunicazione, ne riescono a condividere con le altre persone se non lo conoscono. Quindi noi abbiamo pensato di unire queste due realtà per farli lavorare insieme. Quindi esattamente cosa fate? Assumete delle persone con questa sindrome di Asperger? Allora, stiamo collaborando con uno dei ragazzi, e 2 mesi fa abbiamo fatto tirocinio con altri due, alcuni grafi. Quindi collaborate con un'associazione per cercare di introdurre al lavoro o fare esperienza lavorativa per ragazzi con questa sindrome. Ragazzi, poi appena c'è possibilità lo inseriamo direttamente come socio della cooperativa. Take a break. I'm a hot air balloon that could go to space with the air. Suleiman, lei da dove proviene? Da quale paese dell'Africa? Io vengo dal Mali. E quando è arrivato in Italia? Sono arrivato in Italia nel 2008. In Sicilia sono arrivato. Quanti anni aveva allora? 22 anni. Sono arrivato poi, dopodiché sono andato a Rosarno. Lavoravamo, diciamo, raccogliendo i pomodori, i mandarini ed anche zappare la terra. Cioè, in poche parole, che eravamo sotto lo sfruttamento perché venivamo pagati 20 euro per la giornata. Quante ore di lavoro? Di 12 ore di lavoro. Dalle 7 di mattina puoi lavorare fino alle 7 di pomeriggio e ti viene pagato 20 euro. E c'erano degli intermediatori, questi caporali che di solito raccolgono dalla strada dove i ragazzi aspettano, i braccianti aspettano e portano le persone nei campi, però trattengono una parte dello stipendio? No, in questo caso non c'erano ancora loro a questo momento. Quindi non avevate almeno lo sfruttamento dei caporali, però una vita molto dura. Lo sfruttamento dei direttamente italiani che ci prendevano a lavorare e ci sfruttavano lo stesso. Lei in quel periodo immagino fosse senza documenti. Sì, io ero senza documento, quello sì, perché non avevo ottenuto ancora il permesso di soggiorno. Poi come l'ha ottenuto? E poi, dopodiché, quando abbiamo fatto la manifestazione... Perché voi avete fatto una protesta, questa manifestazione a cui si riferisce era una protesta, no? Sì. Quindi voi vi siete ribellati a questa forma di sfruttamento, avete fatto una manifestazione di protesta. Sì. E poi siete andati via da Rosarno. Da Rosarno. Vi eravate conosciuti lei e i suoi amici e colleghi della cooperativa Baricamà. Sì. Vi siete conosciuti a Rosarno, dormivate assieme, lavoravate assieme? Alcuni sì, ci conoscevamo già da Rosarno, però... tanti ci siamo conosciuti qui a Roma. E a Rosarno cosa vi dicevate? Ce ne andremo? Avevate già in mente di creare qualcosa di vostro? No, l'idea è nata dopo tutta questa manifestazione, perché sapendo come siamo stati sfruttati, per non accettare più una cosa di genere, abbiamo fatto varie esperienze. Io personalmente sono stato anche nei campi in Puglia, a Gargano. Sì, nel Gargano, a Rignano immagino, dove sì. C'era un grande ghetto di persone migranti che andavano di giorno a lavorare nei campi. Ora è stato sgomberato, ma ce ne sono altri lì vicino. Sono andato a lavorare là, ho visto che lì lo sfruttamento è peggio di Rosarno, perché... Rosarno c'è idea della giornata, cioè vai là e lo sai che viene pagato questa quantità. Invece a Foggia ci dicono di raccogliere pomodori, cassoni che pesano minimo 300 kg, cioè chi raccoglie a 3 euro. Quindi ti devi massacrare per avere tante, perché tu cioè, quanti ne fai e vieni pagato in base di quanti ne hai fatto. Quindi c'è proprio uno schiavitù. Per riuscire a ottenere 30 euro devi fare 10 cassoni, però in cui questo 10 cassoni tu devi pagare anche il caporalato che ti ha portato nel campo, 5 euro del trasporto. Ci fermiamo brevemente, torniamo a parlarvi di questa storia tra pochissimo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Allora, arriviamo a quando, dopo queste esperienze molto pesanti in Calabria e in Puglia come bracciante, ha deciso a Roma insieme a alcuni compagni di avventura, diciamo così, e dopo una manifestazione a Rosarno, no? Una rivolta vera e propria, centinaia di africani che erano ridotti in condizioni di semischiavitù si ribellarono ai padroni in questo paesino calabrese. Ci fu anche una caccia al migrante con delle persone che sparavano verso i migranti e lei decide a un certo punto di andarsene, no? Di andare a Roma, e qui a Roma nasce questa idea, quest'idea di fare una cooperativa per non essere più sfruttati. Quali sono i protagonisti di questa avventura? Lei diceva sei soci africani. Da dove vengono? Chi sono? Siete amici? E che preparazione hanno? Io ho iniziato con un ragazzo che si chiama Seidu, è del Gambia. Siamo due maliani, uno del Senegal, uno del Costa d'Avorio, uno del Gambia, uno del Benin. Che stiamo lavorando, più un ragazzo italiano si andrà nella cooperativa. Voi producete proprio verdura biologica, producete yogurt, è una cooperativa tra l'altro verde, no? Biologica sì. Al 100%, appena fuori Roma, e i prodotti sono consegnati ai clienti a casa, in bicicletta. A domicilio in bicicletta e anche vuotare dal vetro per evitare che... per la sostenibilità del nostro progetto e anche sostenere l'ambiente. Come mai un prodotto come lo yogurt? Come mai vi è venuta in mente questa idea? Perché per noi era molto semplice, cioè era un prodotto molto semplice rispetto a tutti gli altri prodotti, cioè la nostra cultura, perché in Africa non mettiamo i fermenti lattici per produrre lo yogurt. Bastava comprare il latte noi mungiamo le mucche, lasciamo il latte a riposare 8-10 ore, dopo diventa tutto yogurt. Quindi noi avevamo pensato, prendiamo il latte, facciamo fermentare e rivendiamo. E inizialmente abbiamo buttato un po' di latte perché non funzionava. E dopodiché abbiamo avuto suggerimenti dalle persone che venivano a questo centro sociale per fare volontariato. Da lì loro hanno cominciato a suggerirci, ragazzi, così qua non funziona, dovete aggiungere i fermenti lattici, altrimenti non riuscite a ottenere un buon prodotto. Abbiamo fatto vari esperimenti, siamo riusciti a ottenere questa qualità del prodotto grazie ai loro suggerimenti. Quindi è uno yogurt senza addensanti, senza conservanti, senza dolcificanti. Senza conservanti, dura un mese chiuso in frigo, 2 settimane aperto in frigo. E voi avete avuto poi un finanziamento? Inizialmente siamo partiti con 30 euro di quella ragazza che faceva volontariato lì alla Chisnia, sulla Prenestina, a Roma. Cioè lei ci ha dato 30 euro, siamo partiti con 30 euro. Dopodiché siamo arrivati a un punto che avevamo necessità di avere un finanziamento, che abbiamo chiesto la Regione Lazio, abbiamo partecipato a un bando della Regione, poi che ci hanno finanziato per comprare le biciclette e il motorino elettrico e alcuni frigoriferi. In questo caso abbiamo avuto il finanziamento, ma loro della Regione ci hanno chiesto di anticipare tutti i soldi. Dopo un anno ci ridanno i soldi che noi non avevamo, e a questo punto hanno chiesto ai gruppi d'acquisti che si chiamano GAS, che sono le famiglie che si mettono insieme a ordinare i prodotti dai produttori, che loro non vogliono intermediari ma vogliono direttamente i produttori, che grazie al loro aiuto, perché quindi loro ci hanno anticipato 24.000 euro in giro di un mese per comprare tutti gli attrezzi. Dopo un anno, quando sono arrivati i soldi della Regione, abbiamo ridato tutti i soldi indietro. Cioè, grazie a loro che siamo in piedi, perché noi non avevamo quegli soldi, ma il progetto era arrivato a un punto che era necessario avere quelle attrezzi che abbiamo comprato. E poi dopodiché abbiamo avuto finanziamento dalla tavola Valdesi per comprare un furgone refrigerato, anche un trattore, grazie anche a un altro bando che si chiama Charlemagne, che si trovano, finanziano vari progetti in Europa. Abbiamo unito 2 soldi per comprare trattore e furgone refrigerato. Poi ultimamente abbiamo avuto l'ultimo finanziamento da Confagricoltura per comprare alcuni attrezzi. Da quanti anni avete iniziato e quanto è aumentata la produzione? Allora, il progetto è nato nel 2011. Facevamo 15 litri di latte a settimana ed è oggi che facciamo 250 litri fisi a settimana. Riusciamo a vendere tutto nella settimana. Avendo sofferto così, ora trovandomi in queste condizioni, mi sento molto contento, anche fiero di me stesso per il fatto che abbiamo messo questa cosa ieri, che siamo riusciti, che stiamo riuscendo ad aiutare più persone. Lei ovviamente è orgoglioso di quello che ha creato. Questo sì, sono molto orgoglioso di quello che stiamo facendo con i miei amici e quindi mi piace molto questa cosa che siamo riusciti, che stiamo riuscendo ad andare avanti. Suleiman, ma lei perché? L'ultima cosa che abbiamo avuto è il bando della Comune di Roma per la gestione del Parco Nemorense. All'interno del parco c'è un chiosco bar che ci siamo con insieme l'azienda agricola dove stiamo coltivando, più un ristorante che sa fare ristorazione. Noi come cooperativa ci pensiamo la gestione del verde della cooperativa del parco. Suleiman, lei perché è partito dal Mali? Era un ragazzo molto giovane di 20 anni. Perché è partito dal Mali? Avevo molto difficoltà nella famiglia, non riuscivamo a produrre abbastanza diciamo culture che coltivavamo nella famiglia. Lei viene da una famiglia di agricoltori? Sì, che sono figlio di un contadino che lavoravamo la terra, ma lavoravamo solo con le zappe. Quindi io sono uscito perché pensavo di riuscire, magari esco e cerco di avere qualche soldo e compro qualche attrezzi come trattore, pompa per tornare nel paese a coltivare la terra. Poi quando sono arrivato qua mi sono ritrovato. Come è arrivato in Italia? Con un barcone? Con un barcone, sì. Com'è stato questo viaggio? È stato molto duro, però ce l'abbiamo fatto. Eravamo in 28 persone nel barcone. Poi quando sono arrivato... Quante ore o quanti giorni di navigazione? 3 giorni siamo stati sul mare. Partiti dalla Libia? Siamo arrivati in Sicilia. Partiti dalla Libia? Sì, partiti da Libia. Lei pensava, come ci ha detto, figlio di agricoltori, di iniziare un'attività in Italia come agricoltore in Europa. È stato deludente poi in realtà ritrovarsi a lavorare nei campi 12 ore al giorno per 20 euro da vero e proprio schiavo? Io non me l'aspettavo quello tipo di lavoro. Pensavo di venire a trovare un modo di migliorare la mia vita, senso... Era un pensiero che vengo in Italia, applico massimo 4-5 anni, massimo 5, riesco a lavorare e tornare al mio paese e comprare quelle attrezzi che avevo pensato per coltivare la terra. Non era un pensiero di venire e rimanere in Italia, ma vengo in Italia, faccio questo lavoro fino a 5 anni, poi torno indietro, compro un trattore e questi attrezzi, comincio a lavorare la terra e poi è finito. Invece la vita è stata più difficile di quello che lei pensava in Italia? Sì, per questo dicevo che tutti quegli africani, che la maggioranza non è quelli che hanno guerra nel paese, ma quelli che non hanno guerra, tanti partono con questi tipi di progetti, ma quando arriviamo qua ci ritroviamo intrappolati, in senso che arrivi qua solo per ottenere il permesso di soggiorno, passi 4-5 anni solo per ottenere quello pezzo di carta, poi ti trovi proprio intrappolato perché tu non riesci più, non sai più l'origine, ma non riesci anche a essere dove sei andato. Quindi ci troviamo, cioè, tante persone dispersi, nel senso. Lei cosa direbbe oggi a un ragazzo africano di 20 anni che vuole partire? Rimani a casa tua o vieni? Io dirò che no, vieni, solo che non mi ascolterà. Suleiman, come si fa a ordinare lo yogurt da voi? Si può ordinare o via telefonico, uno chiama o uno manda direttamente un sms. A che numero? A questo numero 339-6450-624. Un sms o una chiamata o direttamente vai sul sito di Barikama. Cerchi l'email, manda un'email, vede anche direttamente sul sito, vede direttamente i prodotti dell'azienda, quelli biologici, tutto, e verdure, le trovi tutti quelli disponibili, puoi fare un ordine minimo di 10 euro, facciamo consegna a domicilio e la consegna non costa niente. In bocca al lupo per tutto, Suleiman Diara, ai suoi colleghi, amici, soci della cooperativa Barikama di Roma, che produce yogurt e prodotti biologici. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, sono molto contento. Grazie, grazie di cuore. Grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto anche questa sera di Radio 24 e Sole 24 Ore di Indovina chi viene a cena. Noi ci risentiamo sabato prossimo. Buona serata e buona Pasqua a tutti da Valentina Furlanetto. Ciao. You've got to give a little. That's the glory of love.